get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte e ben ritrovate in questa prima trasmissione non in replica del nuovo secolo. Eh sì, non credo che voi ci sarete nel nuovo millennio, che inizierà il 1 gennaio del 2001. Per quanto riguarda me e Lucilla, che ci onoriamo di iniziare con voi questo 2000, beh, si vedrà. Mai mettere limiti alla longevità di noi lesbiche. Ricordate che, come dicono i bravi cattolici, l'erba cattiva non muore mai. Allora, questo baco del millennio? La domanda è mal posta, almeno per due dei termini che contiene. Per quanto riguarda il millennio, vi ho già esposto la mia opinione. È finito solo un secolo e non un millennio. Ed in merito al baco, questo termine non è che una pessima traduzione dell'inglese bug, che in realtà significa cimice o genericamente insetto, e non baco. Sarà una teoria un po' azzardata, ma forse in Italia si è voluto indicare con baco tutti i mali parentati per gli errori nei programmi per computer per condannare ancora una volta il transgender. Eh sì, non ci avete mai pensato che la coppia Baco-Farfalla rappresenta uno dei più lampanti esempi che il transgender esiste in natura. E quindi non si può condannare l'esistenza di questo fenomeno proprio appellandosi ad essa. E va bene, la battuta non è delle migliori, ma per farmi perdonare, in questa trasmissione vi parlerò di chi di transgender davvero se ne intende, Teresa De Lauretis. Comunque, baco o bug che dir si voglia, chi come me ha trascorso una notte di Capodanno vegliando selve di computer in attesa che finalmente facessero una rivoluzione degna di nota, ebbene un po' incazzata lo è. Ancora una volta hanno avuto ragione loro e di veri casini non ne sono successi. Eh no, per favore, è troppo semplice. Questo lo potete dire voi che avete trascorso quella notte folleggiando un po' qui e un po' là. Fatemi dare un senso al mio lavoro che è già così difficile riuscirci normalmente. Il problema dell'anno 2000, bisestile e con tanti zeri nella data, esisteva davvero. E se il mondo non si è paralizzato è solo perché tante e tanti sciocchine e sciocchini come me vi hanno dedicato quasi un anno e mezzo di lavoro, rivoltando come calzini tutti i computer ed i programmi che li fanno funzionare, aggiornandoli, provandoli e lottando con chi li ha costruiti per ottenerne nuove versioni che non se la prendessero troppo a male se 00 significa 2000 e non 1900. O no? Bah! Il dubbio di aver sprecato una notte di follia mi resterà sempre. In realtà la verità è come al solito in mezzo a due diverse posizioni. Problema vero o grande fenomeno economico, il millennium bug era in diversi computer, soprattutto di tipo gestionale, ma è anche stato l'occasione per far incamerare un bel po' di miliardi e di rialzi in borsa alle grandi società di consulenza informatica. Ed ora che siamo già nel 2000? Non preoccupatevi, cari impiegati dell'informatica, il posto di lavoro è salvo, c'è sempre la conversione lire-euro da inserire in questi cari, amati e purtroppo indistruttibili computer. Detto ciò, ci vuole una bella scarica di adrenalina. Skank & Nancy con On My Hotel TV. Yeah. Stendo la mia giacca, do la solita occhiata alla 7th Avenue, mi siedo alla scrivania e lascio cadere sulla sedia la mia borsa a tracolla. Dentro c'è una Smith & Wesson 38. Nel cassetto della scrivania riposo una Magnum 38 e allacciata alla mia caviglia una 25. La prudenza non è mai troppa di questi tempi. La scrivania, sgombra da qualsiasi oggetto normale, è occupata solo dagli strumenti necessari per il mio mestiere. Un telefono, un computer portabile AST a colori e un modem PCMC-CIA, megahertz. Un acquisto recente. L'ho comprato tramite CompUSA e devo iniziare a pagarlo prima di 6 mesi. Kip non era entusiasta. Estraggo dalla tasca dei jeans il foglietto sul quale Lissa ha elencato gli amici di Ruti. Ci sono 6 nomi. L'avete riconosciuta? Ma sì, è lei, Lauren Lorano, la detective lesbica newyorkese che torna a noi per risolvere un nuovo caso mozzafiato. Ormai la nostra, superati i 40, sta ancora con Kip, la sua compagna psicanalista, e si muove in un mondo di lesbiche e gay che descrive con naturalezza e senza toni foschi. Questa volta ci sono tanti colpi di scena: la crisi con Kip, un nuovo incontro, il ritorno dal passato di una sua vecchia e scomoda conoscenza, il ferimento del suo amico Peter Cecchi, tenente di polizia. Una storia da non perdere. Il nuovo giallo di Sandra Scoppettone si intitola Vendicare la pelle, edizione E.O. Noir, costo dell'operazione 25.000 lire. Della stessa autrice anche Tutto quel che è tuo è mio, edizione O, il primo giallo tradotto che ci fa conoscere la detective Lorano. Sappiamo che la Scoppettone ha scritto altri 2 romanzi di cui Lauren è protagonista, ma purtroppo non sono ancora stati tradotti in italiano. Speriamo di poterli leggere al più presto, perché sono piacevoli, divertenti e inoltre raccontano, attraverso spaccati di vita, dell'esistenza di una comunità lesbica e gay allegra, felice e solidale. E adesso ascoltate la splendida voce di Noah con I Don't Know. Strong, I can fight, but I don't know, I don't know, I don't know. Tower, brick and stone, make my way on my own, but I don't know, I don't know, I don't know. I don't know why, I don't know how. If I can fly, can I fly? Are my wings strong enough to bear the winds out there? Hey, I don't know. Flower colored bright, I am strong, I can't fight, but I don't know, I don't know, I don't know. Tower, brick and stone, make my way. docente di storia della coscienza dell'Università della California di Santa Cruz, animatrice di Women's Studies statunitensi, ma italiana fino in fondo all'anima, di lesbo femminista doc, coniatrice dell'espressione queer theory, icona del lesbismo radicale italo-americano. Chi se non Teresa De Laurentiis? Autrice di saggi come Sui Generis, Differenza e indifferenza sessuale, Pratica d'amore, diventati vere e proprie pietre miliari del post-femminismo degli anni 80 e 90. Ad ogni nuova opera pubblicata, almeno un appuntamento in Italia non può mancare, e così è stato anche nell'anno appena trascorso, per Soggetti eccentrici, magistralmente presentato il 4 novembre a Roma, presso la Libreria delle Donne, da Ambra Pirri e Vania Chiurlotto. Il libro è organizzato in quattro saggi che tentano di mettere a fuoco i termini in cui si può parlare oggi, dopo 30 anni di dibattiti e ricerche, dei rapporti tra corpo, genere, sessualità e soggetto. Scritti dal 1987 al 1998, Soggetti eccentrici, irriducibilità del desiderio e cognizione del limite, la nemesi di Freud, sintomatologia dei generi, costituiscono un percorso che nasce dalla rilettura dei testi portanti del femminismo anglo-americano per identificarne i momenti di rottura e di svolta, analizza parte del dibattito femminista italiano ed in particolare la discussione tra il gruppo milanese dei Quaderni Viola ed il Laboratorio di Critica Lesbica di Bologna, sottolinea l'emergere nelle università nordamericane a partire dagli anni 70 di nuove pratiche di ricerca e insegnamento che hanno generato nuovi oggetti e soprattutto soggetti di sapere, e termina descrivendo gli attuali sviluppi nel discorso sul genere. Ripercorrendo tutta la bibliografia della De Laurentiis, costellata di pietre miliari del pensiero lesbico contemporaneo, durante la presentazione romana, la Pirri ha sottolineato come nell'ultima opera emergano ciò che ha definite vere e proprie grida di dolore sul femminismo. La De Laurentiis, delineando il passaggio da un primo femminismo, nato come critica al patriarcato, ad un secondo femminismo, sfociato nell'autocritica, intesa come presa di coscienza della complicità delle donne con lo stesso patriarcato, riconosce che pur se l'identità lesbica assume la sua connotazione politica attraverso il femminismo, lo fa anche nonostante il femminismo. Ed è qui il grido di dolore ed il riconoscere la negazione del lesbismo durante il femminismo e la critica al pensiero della differenza sessuale in Italia, ripreso durante lo scambio finale di battute con Maria Luisa Boccia. Evidenziando come la De Laurentiis proponga, invece di insistere nella ricerca dell'identità, di combattere l'identificazione con il femminile, che non vuol dire identificazione con il suo contrario, ovvero con il maschile, la Pirri ha ricordato come il termine queer theory sia stato coniato dalla stessa De Laurentiis, per sottolineare come fosse in realtà assente la rappresentazione dell'identità lesbica del movimento omosessuale. Anche se poi il termine queer ha notoriamente assunto un significato ben diverso, proteso verso l'assenza di identità sessuale. Interessantissimo è poi il concetto di perverso, introdotto dalla De Laurentiis. Se la sessualità cosiddetta normale coincide con la sessualità normativa, ovvero imposta dalla società, allora il termine perverso assume il significato di sessualità non normativa e quindi libera dai condizionamenti socioculturali. Vania Chiurlotto ha poi sottolineato come per la De Laurentiis il soggetto si costituisca sessuato come effetto di discorsi e di rappresentazioni ed ha evidenziato come in questo modo emerga un punto di frizione tra differenza sessuale e differenze sessuali. Seppure il merito indiscutibile del pensiero della differenza sessuale è quello di aver ridefinito il materno come rapporto simbolico e non naturale, se la differenza sessuale la si fa coincidere con la differenza biologica, poiché c'è anche la differenza maschile, allora esistono solo due soggetti completi e compatti, e questo può essere coerente solo se si prescinde dalle differenze dipendenti dalle contingenze della vita e quindi dal desiderio. Analizzando il capitolo di Soggetti eccentrici, dedicato al commento al dialogo tra le lesbiche del Laboratorio di Critica Lesbica e le femministe dei Quaderni Viola, la De Laurentiis evidenzia come vi sia una resistenza a distinguere tra eterosessualità come comportamento privato ed eterosessualità come struttura sociale. Il fatto che le lesbiche nominino l'eterosessualità come obbligatoria viene quindi inteso dalle donne eterosessuali come un volere maggiore radicalità da parte loro, che può esserci solo nel lesbismo. È qui quindi che si crea un altro punto di frizione nel rapporto tra lesbiche e femministe. Riferendosi alle dichiarazioni delle teoriche della differenza sessuale, Vani ha poi polemicamente affermato che il patriarcato è vivo e lotta insieme a noi, proprio come in genere si dice dei morti. Dopo le due eccellenti introduzioni, Teresa De Lauretis ha poi ripreso la questione della resistenza delle femministe all'eterosessualità obbligatoria, ancora fortissima in Italia, per ragioni non solo ideologiche ma anche politiche e razionali, mentre negli Stati Uniti è stata ormai accettata come categoria politica. Poiché al desiderio non si comanda, è più facile per una lesbica riconoscere l'eterosessualità obbligatoria come categoria politica, e la De Lauretis ha espresso un'analogia con lo sviluppo della parola istituzione, che ha assunto un senso astratto, parallelamente alla parola società, dopo aver avuto il significato di usanza. Lo stesso succederà per la parola eterosessualità, e ciò è dovuto proprio alla storia dell'evoluzione del linguaggio nella società. La De Lauretis ha poi denunciato l'abuso che si fa del termine transgender, ormai una moda negli Stati Uniti, che ha assunto il significato di cambiamento del sesso biologico, mentre era nato per descrivere il rifiuto di un'identità di genere. Ora, a definirsi lesbica negli Stati Uniti, si rischia di essere identificata come femminista, anziana, conformista e borghese, mentre le giovani si nominano semplicemente queer, e vivono un momento utopico che fa credere loro che essere lesbiche sia semplice. Tra i commenti non tutti favorevoli delle ascoltatrici, la De Lauretis ha poi ripreso la critica al pensiero della differenza sessuale, che, insistendo sulla differenza uomo-donna, sembra presupporre che tutte le donne e tutti gli uomini siano uguali all'interno del loro gruppo, prescindendo, ad esempio, dalle differenze di razza e classe, che invece sono fondamentali per la soggettività. Il porsi come soggetto differente è invece già proprio del femminismo, mentre il pensiero della differenza sessuale ne ha fatto una categoria, omologando le differenze tra donne. Sentirsi un soggetto eccentrico è invece porsi all'interno di una particolare distinzione, ma anche essere ad essa esterna, non rimanendovi ancorata ed omologata. Io ho letto con passione, ma anche con molta difficoltà, l'opera della De Lauretis, autrice complicatissima da leggere, ma adorabile da ascoltare, splendida oratrice e pronta al dialogo con le donne presenti. Insomma, cari soggetti eccentrici di Roma e dintorni, non perdetevi la prossima occasione di udire dalla viva voce di Teresa i neologismi che è solita coniare, cogliendone di persona la lucidità del pensiero e dell'analisi politica. E per il nostro appuntamento con la musica lesbica indipendente, le nostre amiche tedesche Kick la Luna con Stronger Love. La musica, invece, vi ricordiamo che la musica che sentite di sottofondo sul parlato è sempre musica lesbica indipendente di Rachel Zeta. studi, l'Unione Donne Italiane anche quest'anno ci ha regalato uno stupendo calendario dal titolo 1970-1981, con amore, rabbia e lucida coscienza. Siamo la luna che muove le maree, cambieremo il mondo con le nostre idee. 12 foto di repertorio accompagnate da breve commento. Ma sentiamo cosa ci hanno voluto dire le curatrici. Quando abbiamo scelto di rappresentare in questo calendario il tempo delle donne dal 1970 al 1981, eravamo spinte da un forte desiderio: far conoscere soprattutto alle nuove generazioni un periodo intenso della nostra storia politica. Riflettendo sugli ultimi 100 anni, quello che ci è apparso come un elemento certo di discontinuità rispetto al dominio maschile è la nuova, diffusa e significativa soggettività delle donne. Abbiamo perciò deciso, pur nei limiti dello strumento calendario, di consegnare al nuovo millennio proprio questa discontinuità, focalizzandole una delle fasi più mature. Siamo fiduciose che la scansione dei mesi possa tener viva la curiosità, accompagnare il tempo con nuove domande e sollecitare un nuovo impegno di donne e di uomini. Tutte noi abbiamo provato grande emozione e anche nostalgia nello scorrere testi e soprattutto foto di quegli anni. La prima e maggiore difficoltà è nata dal fatto che le foto possono rappresentare efficacemente il movimento visibile, ma molto meno i momenti della costruzione del pensiero politico, filosofico, eccetera, che lo ha preceduto e accompagnato. La seconda difficoltà è riconducibile al fatto che in quegli anni in Italia l'organizzazione storica dell'emancipazione femminile, pure in grande evoluzione nel suo processo di autonoma elaborazione, corre, almeno fino al 1975, quasi in parallelo con il nascere dei gruppi femministi, i quali, a partire dalla pratica dell'autocoscienza, spalancano scenari teorici nuovi nel campo della cultura e della politica. Vi fu all'inizio una grande diffidenza reciproca, e poi un incontrarsi, un confrontarsi e un divenire insieme movimento delle donne. Abbiamo cercato di ovviare alla prima difficoltà, riproducendo le copertine delle riviste e giornali più importanti nati e trasformatisi in quel tempo, alla seconda cercando di fornire una contestualità alle foto. Non tutte le parole forti di allora sono riportate negli slogans riprodotti: maschilismo, separatismo, patriarcato, lesbismo, doppia militanza. Furono però pensate, dette e rivendicate, e vogliamo comunque ricordarle. La narrazione e l'interpretazione degli eventi, senza la pretesa di esaustività, è presente nell'introduzione delle storiche Simona Lunadei e Lucia Motti. Infine, la documentazione parziale vuole dare il senso del cammino compiuto dalle donne nella sfera sociale e culturale, un cammino certamente accelerato e impresso dal segno femminile nel welfare e nella cultura. Benché differenti per storia e appartenenza, abbiamo lavorato con passione, acuita dall'angoscia che ci invadeva nei giorni della guerra dei Balcani. Speriamo di aver prodotto uno strumento utile di relazione e conoscenza e auguriamo buon anno 2000 a voi, a noi e a tutte. Roma, 1 luglio 1999. Liliana Barca, Edda Billi, Rosa Fan Martino, Simona Lunadei, Rossana Marco Doppido, Emanuela Moroli, Lucia Motti, Renata Muliari, Anita Pasquali, Delfina Tromboni. E adesso un'altra notizia. È di pochi giorni fa la notizia che la redazione di Noi Donne ha chiuso per gravi motivi economici. Siamo profondamente dispiaciute perché viene a mancare una voce che ha accompagnato le donne per moltissimi anni. E a questo punto un altro pezzo musicale che si intitola Colori di Sylvie Genovese. Il brontolio delle lamento del vento, il mio amore taci. Tutto, tutto buio, tutto silenzio, solo l'attesa e la speranza. Tutto, tutto buio, tutto silenzio, solo l'attesa e la speranza. Speranza. Ma in lontananza una musica infrange il silenzio, una luce squarcia le tenebre, le sirene tacciono, le onde si chetano, neri gli ulivi, la luna e le stelle. Ecco argento, oro, zaffiro e mio amore. Ecco argento, oro, zaffiro e mio amore. Non più, non più buio, non più silenzio, ecco argento, zaffiro è il mio amore. Gli appuntamenti. Con l'inizio del nuovo anno ci fa piacere ricordare i tradizionali appuntamenti che alcune delle associazioni lesbiche in Italia rinnovano. L'associazione culturale Recycle, in via Calabria 5 a Milano, ogni venerdì, sabato e domenica apre i battenti del locale che gestisce esclusivamente alle donne. Il Circolo Arcilesbica di Roma, Arci come voi, in via De Monte di Pietralata 16, propone diverse iniziative alle 21 di ogni mercoledì. Arci Rimorchio, gruppo di discussione sulla socializzazione nella comunità lesbica, primo mercoledì del mese. La nostra politica, riunione informativo-politica secondo mercoledì del mese. Les Voyeuses, serata con proiezioni film, terzo mercoledì del mese. Quattro chiacchiere, per incontrarti e scambiare quattro chiacchiere in compagnia, quarto mercoledì del mese. Inoltre, le sgambettate, ogni prima domenica del mese gite programmate per tutto l'anno e a gennaio corso gospel e un corso di calcetto. Per autofinanziare l'ottava edizione del Festival Internazionale del Cinema Lesbico Immaginaria, l'Associazione Culturale Lesbica Separatista Visibilia organizza ogni secondo e quarto sabato del mese a Bologna serate con osteria e postazioni internet presso la discoteca Millennium in via Riva di Reno 77A. Siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione autogestita a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Chiamateci ogni mercoledì dalle ore 21 allo 06 6864 201, telefono, fax e segreteria telefonica, oppure qui in radio il martedì allo 06 49 17 50. Il nostro indirizzo di posta elettronica è clrbp@hotmail.com. Giovedì 13 gennaio, a partire dalle ore 11, Arcigay invita tutte le persone di buona volontà, antirazziste e anti-emarginazione, a portare un fiore in piazza San Pietro per commemorare per il terzo anno consecutivo Alfredi Ormanno, il gay palermitano che nel 1998 si è dato fuoco sul sagrato di San Pietro per protestare contro la condanna operata dai cattolici nei confronti degli omosessuali. A San Pietro e presso le cattedrali delle principali città italiane, Arcigay distribuirà una lettera ai cattolici italiani. Citando testualmente nel comunicato stampa che annuncia l'iniziativa, il presidente di Arcigay, Sergio Lo Giudice, augura ai cattolici che il terzo millennio porti con sé la possibilità di un papa donna, una madre spirituale che, come tutte le donne ci hanno mostrato di saper fare, sappia gestire con amore e comprensione la comunità cattolica. Pur salutando con rispetto l'iniziativa di San Pietro, preghiamo Arcigay di impostare la relazione che ci sembra di capire, auspicio con i cattolici, senza passare sul corpo e sull'amore delle donne. Il 22 dicembre scorso, Nera Gavina, presidente di Arcilesbica di Bologna, con un comunicato stampa ha denunciato l'episodio di inciviltà che ha visto protagonista il circolo Arcigay Arcilesbica, il Cassero. Nella notte tra il 20 e il 21 dicembre, la porta di accesso al circolo è stata totalmente ostruita con un muro composto da mattoni e cemento, con affisso un cartello riportante la frase "aperto dietro". Ci associamo a Nera nel condannare episodi di ignoranza e di intolleranza di questo tipo. Nell'ultimo numero dell'Espresso è stata riportata una notizia che un po' ci fa sorridere. I ricercatori della Scuola di Medicina dell'Università di Washington, in collaborazione con l'azienda farmaceutica Pfizer, hanno proposto a Chicago, durante un convegno annuale della Società di Radiologia Medica Americana, una nuova tecnica che permette di misurare ciò che avviene nel corpo femminile durante l'eccitazione sessuale. Il metodo si basa sull'esecuzione della risonanza magnetica nucleare al basso ventre delle donne, iniettando, nel contempo, una sostanza che rende visibili i vasi sanguigni. A parte il carattere invasivo ed altamente nocivo del metodo, la notizia è rivoluzionaria per due ordini di motivi. In primo luogo, finalmente gli uomini hanno compreso che era necessario inventarsi un metodo scientifico per capire come provano a piacere le donne, visti gli scarsi risultati che riescono a raggiungere a letto, luogo in cui poco e niente hanno mai capito della sessualità femminile. In secondo luogo, attente amiche eterosessuali, se il vostro amico si fornisce di apparecchietti portatili per la risonanza magnetica, ora davvero non potete fingere. Mercoledì 12 gennaio alle ore 16 presso la Casa Internazionale delle Donne in via San Francesco di Sales 1B, il Forum delle Donne di Rifondazione invita tutte le donne interessate a discutere insieme delle TRA, tecniche di riproduzione assistita. Uno studio dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla percentuale degli occupati rivela la marginalizzazione delle donne. Quando il problema della disoccupazione diventa un'emergenza, infatti, a restare a casa sono in primo luogo le donne. In Italia, sopra i 15 anni di età, 7 su 10 sono prive di occupazioni, come in Turchia e Spagna. Intanto, alle commesse della COIN è negato il diritto di sciopero. Un'altra notizia, più che un appuntamento, è quella che veniamo a sapere a proposito del convegno del CNL sulla questione del lavoro femminile non pagato nel bel paese, che poi sarebbe il nostro. In famiglia a sgobbare sono sempre le stesse, faccende domestiche, un record europeo. Ebbene, è stata fatta una ricerca e questa ricerca è stata realizzata da un gruppo di ricercatrici coordinato da Antonella Picchio dell'Università di Modena e Reggio Emilia e composto da economiste tra cui Tindara Adabbo, Elisabetta Addis e Giuliana Campanelli. La ricerca si è occupata, tra le altre cose, dell'argomento che ha affrontato alla luce degli impegni presi dal governo italiano alla quarta conferenza delle donne di Pechino e avendo presenti gli indicatori statistici sul lavoro non pagato in ambito domestico che avevano fatto emergere un orario complessivo di lavoro per le donne italiane non soltanto nettamente superiore a quello degli uomini, ma più elevato rispetto alla media delle altre donne europee. E successivamente, nella ricerca fatta ulteriormente, tutte le ricercatrici confermano il maggiore peso per le donne del lavoro non pagato e una maggiore difficoltà di lavoro per le donne con la presenza di figli. La presenza di figli, in altre parole, aumenta il lavoro domestico e riduce le possibilità e o le percorrenze di quello extradomestico. Nel computo del lavoro domestico rientrano inoltre, oltre alle cosiddette attività di cura per i figli, che oggi si protraggono fino all'età adulta dei medesimi, con ovvio aumento del carico di lavoro non pagato per le madri, il lavoro domestico di gestione complessiva del luogo familiare, direttamente proporzionale al numero di chi vi abita, nonché la cura del partner, che costituisce un capitolo molto preciso e impegnativo di incombenze. La nostra amica Eleonora ha inviato a fine 1999 tramite internet una poesia della polacca Wisława Szymborska, premio Nobel nel 1996. La poesia si intitola Scorcio di secolo. Doveva essere il migliore degli altri il nostro ventesimo secolo. Non farà più in tempo a dimostrarlo, ai giorni contati, il passo malfermo, il fiato corto. Sono ormai successe troppe cose che non dovevano succedere e quel che doveva arrivare non è arrivato. Ci si doveva avviare verso la primavera e la felicità, tra l'altro. La paura doveva abbandonare i monti e le valli, la verità doveva raggiungere la meta prima della menzogna. Certe sciagure non dovevano più accadere, ad esempio la guerra e la fame e così via. Doveva essere rispettata l'inermità degli inermi, la fiducia e via dicendo. Chi voleva gioire del mondo si trova di fronte a un compito irrealizzabile. La stupidità non è ridicola, la saggezza non è allegra. La speranza non è più quella giovane ragazza eccetera eccetera purtroppo. Dio doveva finalmente credere nel genere umano, buono e forte, ma il buono e il forte restano due esseri distinti. Come vivere? Mi ha scritto qualcuno a cui io intendo fare la stessa domanda, da capo e allo stesso modo di sempre, come si è visto sopra. Non ci sono domande più pressanti delle domande ingenue. Ed Eleonora ha commentato così la poesia che aveva scelto. Difficile alzare i calici al nuovo millennio, alle nuove promesse. Le lesbiche restano tra le poche partigiane e resistenti alle nuove false promesse. Il nostro sguardo, dal margine, sarà attento e cercherà di colpire qualche segno. Speriamo. Tanta salute a tutte. Sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no, yeah. Avete ascoltato È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa.